Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Vi è mai capitato in viaggio di comprare oggetti che mai avreste comprato in un vostro normale giro di shopping, oppure di guardare vetrine alle quali mai avreste prestato attenzione? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, andiamo a scoprire i segreti, prodotti, negozi e formule commerciali di un settore poco conosciuto ma molto interessante per la sua unicità, il travel retailing. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi della rivincita dei prodotti di marca che, nonostante le previsioni, tengono testa in tutti i settori, e per il focus sui trend di legnomania, quando a fare tendenza è il più nobile e antico dei materiali. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana. Colori vivaci, viola, fucsia, giallo, arancio e fantasie dal richiamo etnico. Sono i trend del Beachwear 2009. Per le forme, sì a reggiseni a triangolo e push-up, addio definitivo al tanga. Tornano i tagli a oblò stile anni 70 per i costumi interi. Grande importanza ai copricostumi coordinati, dal pareo ai caftani fino agli hot pants. Fondamentale andare in spiaggia vestite. I cosmetici naturali si apprestano al sorpasso sulla cosmesi di laboratorio. Sono oltre 2.300 i biocosmetici certificati da ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, il 30% in più rispetto a un anno fa. Da settembre entrerà in vigore uno standard unico europeo che disciplini il settore. Amazon è pronta a lanciare Super Kindle, nuova versione del lettore elettronico per libri e quotidiani in formato digitale. Anche la Apple, che peraltro sul suo iPhone permette già di scaricare il software di lettura di Kindle, avrebbe in cantiere un dispositivo simile, con il vantaggio aggiuntivo della navigazione web. In Svizzera può succedere anche questo. I conti sono in attivo e il comune decide di premiare i cittadini. Grazie ai buoni risultati economici raggiunti nel 2008, ogni abitante della città di San Gallo, centro economico della Svizzera orientale, riceverà un buono acquisto del valore di 50 franchi, 33 euro circa. Contagia anche l'online la mania tutta americana per il turismo cimiteriale. My Dead Space e YourDeadSpace.com sono autentici cimiteri virtuali in cui si può passeggiare tra le lapidi, guardare le foto e leggere i profili dei cari estinti, condividere i ricordi degli amici. Non mancano le celebrities. È uscito sul mercato cinese il primo telefonino con cui ci si può fare anche la barba, già soprannominato Razorphone, in assonanza con il famoso telefonino di Motorola, costa $112. Il rasoio incorporato utilizza tecnologia Philips. La borsa della spesa. Oggi, come detto in apertura, facciamo shopping in viaggio, ci fermiamo a comprare qualcosa in un duty free, una stazione, un hotel, dove troviamo negozi e prodotti diversi da quelli che compriamo abitualmente, diversi per tipologia, per prezzo, per destinazione d'uso. Sono i prodotti del cosiddetto travel retailing. Il travel retailing è l'attività commerciale al dettaglio svolta in luoghi e snodi di movimento e transito, aeroporti, autogrill, hotel, outlet, parchi a tema, e rivolta ai consumatori in viaggio. Nato nel 1947 dall'intuizione di Brandon O'Regan, creatore dei primi duty-free shop, il settore oggi vale circa 30 miliardi di dollari. La sua crescita è direttamente proporzionale all'aumento del traffico e dei viaggiatori nel mondo. Solo quelli del trasporto aereo hanno raggiunto nel 2007 quota 4 miliardi e mezzo. I luoghi del travel retailing sono considerati i nuovi luoghi per acquistare e consumare, all'insegna del viaggio e del tempo libero. Ma sono solo acquisti d'impulso? Lo abbiamo chiesto a Emanuele Sacerdote, autore di Travel Retailing, primo libro dedicato al fenomeno, libro dal quale abbiamo tratto i dati contenuti nella scheda. Sicuramente c'è una componente di impulso su un certo tipo di prodotto. Il prodotto, possiamo dire, che è quello lusso, lifestyle, quello che sostanzialmente il consumatore viaggiatore non pensa di acquistare, ma che trova e viene attratto e quindi acquista, oppure ha visto magari downtown e non aveva tempo, invece in aeroporto ha tempo perché ha avuto la possibilità di, non so, arrivare un'ora prima o l'aereo in ritardo. Invece da un punto di vista di pianificazione del consumo, abbiamo evidenziato che per esempio tutto quello che è il cibo, tutto quello che è la ristorazione, tutto quelli che sono le sigarette piuttosto che i liquori e via dicendo, ha decisamente una componente più di pianificazione. E possiamo dire che un terzo di quelli che viaggiano fanno shopping in aeroporto versus invece altre tipologie di acquisti. Non dimentichiamoci che c'è una categoria molto importante che è quella dei souvenir, una delle cose che è fondamentale entrare nel retail, perché l'acquisto del prodotto diventa un elemento del ricordo del viaggio, quindi c'è sicuramente un elemento, specialmente per quelli che fanno turismo. Cambiamo argomento, è iniziata la riscossa dei prodotti di marca, ci spiega il direttore di Markup Luigi Rubinelli. I prodotti a marchio del distributore non saranno i campioni incontrastati nel 2009. Le grandi marche infatti terranno testa in tutti i segmenti di mercato. A sostenere queste previsioni sono i dati di Centromarca, che per il mese di marzo registra un incremento delle vendite dei beni di consumo, appunto delle grandi marche, pari all'8,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È un dato di grandissima rilevanza, dice Luigi Bordoni, presidente di Centromarca, che conferma il ruolo guida delle nostre aziende nel mantenere il mercato innovativo, dinamico e attraente per il consumatore. Il dato è davvero sorprendente, soprattutto se si pensa che molti opinionisti e sociologi avevano dato le grandi marche in forte difficoltà. Con una quota di mercato prossima al 70%, i prodotti di marca nazionale si confermano invece ai primi posti nelle preferenze di consumo. Si tratta della quota di mercato più alta in Europa e nei paesi industrializzati. Anche nel mese di aprile, stando alle prime stime, le vendite delle industrie presentano un andamento positivo. La rilevazione rapida, alla voce comunicazione advertising, prevede investimenti uguali o superiori per quasi la metà delle industrie. Per questo, senza dubbio, le imprese di Centromarca continueranno, con investimenti per circa 2 miliardi di euro l'anno, a dare un contributo importante alla tenuta del mercato pubblicitario. Mai più senza. Ricordate il teorema di Pitagora, quello del triangolo rettangolo, applicatelo al design ed otterrete l'oggetto cult di questa settimana, a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. Già il nome lascia trasparire un chiaro intento ironico e provocatorio. Mies allude infatti a Mies van der Rohe, l'ultimo direttore del Bauhaus. In questa seduta, della fine degli anni 60, la critica al funzionalismo del Bauhaus convive infatti con la ripresa della produzione di mobili in tubi d'acciaio tipica del periodo. Realizzata dal gruppo Archizum Associati, nato a Firenze nel 1966 con Branzi, Corretti, De Ganello e Morozzi, Mies costituisce uno dei manifesti del design radicale, dell'anti-design come reazione alle tendenze conservatrici e nostalgiche di quell'epoca. È il periodo in cui nascono le riedizioni dei mobili del classico moderno, si pensi ad esempio a Gavina con i tubolari di Breuer o a Cassina con quelli di Le Corbusier, la struttura della seduta è in acciaio cromato e una striscia di latex tirata chiude perfettamente la pura forma geometrica triangolare. Cuscini in cavallino, con esplicito riferimento alla famosa chaise longue del 29 di Le Corbusier, fanno d'appoggiatesta ed appoggiapiedi, applicando la vocazione ironica dell'oggetto anche alla sua apparente scomodità. Essere e avere. Bentornati in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata alle nuove tendenze in compagnia di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno, bentrovati. Oggi dedichiamo la puntata al più nobile e antico dei materiali, un materiale che grazie alle istanze legate all'ecosostenibilità è diventato protagonista di un vero e proprio revival Apple che attraversa tutti i settori. Il design, anche negli oggetti più improbabili, la moda con tessuti all'avanguardia e l'architettura. Parliamo insomma di una vera e propria legnomania. Patrizia. Sì, la tendenza all'uso dei materiali naturali, organici, semplici è una tendenza forte e appunto non solo nel design, anche se forse quello è il luogo dove la sensibilità al dialogo con questi materiali è più spinta e trova le espressioni anche più estreme. Il legno, come dicevi, è forse l'elemento naturale per eccellenza e nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, si è visto più o meno insospettabilmente un po' dappertutto. Era per esempio sulla copertina del numero di Wired Italia di aprile, titolo Undicesimo Comandamento Impatta Zero. O meglio, era nella copertina, perché era una copertina molto d'effetto sia per gli occhi che per le mani, perché era proprio di legno, c'era da toccare, da tastare per sentirne l'effetto ruvido. Il legno era al fuorisalone del mobile, questo non ci stupisce, da poco concluso, ma allo spazio Pelota gli inglesi Established & Son hanno presentato le nuove collezioni di mobili, scaffali, armadietti in serie limitata, che erano circondati e avvolti da cataste di legno, pare 30 tonnellate, in un allestimento che era di grandissimo impatto proprio per l'attrito percettivo che si provava tra la semplicità, la povertà e la frugalità del legno così ammassato e l'esclusività dei prodotti esposti. L'abbiamo sentito nello spot tormentone di Fiat per la campagna sugli ecoincentivi, sugli ecofinanziamenti, che ha usato appunto il famosissimo nostalgico testo di Gianni Rodari con le musiche di Sergio Endrigo e il corretto dei bambini che cantavano: per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole il fiore, insomma per fare tutto, comprese le macchine, forse ci vuole solo un fiore. E poi all'Ethical Fashion Show, la prima edizione milanese del marzo scorso, hanno sfilato abiti di legno, più precisamente di corteccia di palma, usata come fibra tessile, di Patrick Lafrontière, che erano ispirati alle tradizioni, alla storia caraibiche. Riscoperta del legno vuol dire anche riscoperta di uno dei mestieri dimenticati per eccellenza, quello del falegname, al quale vogliamo rendere omaggio con uno dei personaggi più amato dell'infanzia di tutti. Ed ora ho pronto un bel nome per te. Pinocchio, ti piace? Ah, allora è deciso. Pinocchio sarà. Andiamo, ora lo collaudiremo. Musica, maestro! Oh, com'è grazioso il mio bel burattino. Patrizia, viva il legno dunque, ma ricordiamolo, una risorsa naturale ma scarsa, bisogna fare attenzione anche a questo aspetto. Sì, questo direi che è un punto importante su cui soffermarsi, perché è effettivamente una risorsa scarsa, e se la tendenza a usare materiali naturali, compreso il legno, diventasse davvero mainstream, si porrebbe un problema di sostenibilità proprio in termini di produzione di oggetti con componenti di legno. A quel punto, voglio dire, sarebbe più sostenibile la bioplastica o qualche altro materiale. Facciamo l'esempio della combinazione tecnologia e legno, parlando di bambù, per esempio, con cui si fanno già computer e portacomputer. Pensiamo alla linea studio hybrid di Dell, oppure ai notebook di Asus, ma gli esempi sono molti. Si fanno casse acustiche, tastiere, mouse, penne USB e, uscendo dall'elettronica di consumo, biciclette, t-shirt, addirittura lenzuola, biancheria, eccetera. Il punto cruciale è proprio questo, cioè che c'è un'equazione: uso il legno, uso il bambù, sono sostenibile, sono amico del pianeta, che è un'equazione che continua a tenere sul piano della comunicazione, proprio perché tutti associamo automaticamente il legno e la sua naturalità con le istanze della sostenibilità. Ma diciamo avrebbe effetti controintuitivi, cioè diventerebbe seriamente insostenibile sul piano dei consumi se appunto diventasse il legno il materiale, pensiamo, per gadgets o device elettronici usato a livello industriale. Cioè, per fare un esempio concreto, se andassero in produzione prototipi tipo il cellulare biodegradabile Maple Phone, che è stato progettato dai vincitori dell'International Design Excellence Awards proprio l'anno scorso, un cellulare di legno touchscreen ricoperto di uno strato di un materiale ad alta conduzione che, se cominciasse a essere prodotto e diventasse di successo, impatterebbe diciamo sulla deforestazione. Quindi legnomania sì, ma nel mondo delle merci più come opzione estetica, più come un'idea di legno che diventa un elemento differenziante di personalizzazione dei prodotti, come nel caso delle custodie per iPod, per iPhone, più che elemento costitutivo. E ancora, legnomania forse come ostentazione di una posizione etica, di una nuova coscienza che usa il legno dentro gli oggetti di cui ci circondiamo come materiale simbolo di un legame antico con la natura che abbiamo perduto ma che poi abbiamo ricostituito. Il legno è diventato protagonista anche in architettura, si moltiplicano le case realizzate in legno, si è parlato molto di queste costruzioni dopo il terremoto in Abruzzo per le loro elevate proprietà antisismiche. Con il legno si possono realizzare anche delle vere e proprie instant house, case prefabbricate che si costruiscono in poche ore e hanno prezzi competitivi rispetto alle case tradizionali. Per saperne di più abbiamo in collegamento un'esperta, Marta Baretti, architetto, socia fondatrice dello studio di Treviso Arbau. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Com'è? Come si realizza una casa in legno? Una casa in legno è una casa prefabbricata e quindi si realizza con la tecnica della prefabbricazione, quindi con un montaggio a secco in cantiere che può essere molto veloce, dipende ovviamente dalla complessità della costruzione. Può essere costruita in due modi, con una struttura telaio, che è come le costruiscono negli Stati Uniti per semplificare, quindi con dei montanti di legno e poi dei tamponamenti. Oppure quello che diciamo adesso in Italia è la tecnica più usata è con i pannelli strutturali portanti che vengono proprio montate come se fosse un Lego. Quali sono i vantaggi di questo tipo di realizzazione? I vantaggi sono molteplici, sia da un punto di vista diciamo della velocità di esecuzione, sia da un punto di vista energetico, perché a parità di spessori contenuti si riesce ad ottenere un ottimo rendimento energetico per questi edifici. E il vantaggio che secondo me è l'aspetto forse più interessante, che può contribuire al contenimento dei costi, è di lasciare la struttura a vista della casa, e già di per sé è un portatore di qualità. E poi l'ultimo, l'aspetto della sostenibilità, chiaramente. Ci sono invece cose che non si possono fare in una casa in legno rispetto a quelle tradizionali? No, assolutamente no. Anzi, consente anche da un punto di vista strutturale di fare architetture abbastanza ardite. Si arriva a costruzioni di 5-6 piani. Quindi prefabbricata non vuol dire che non sia personalizzabile, per così dire, in fase di progetto si può fare tutto quello che si vuole? Assolutamente sì. Spesso la prefabbricazione viene associata a un'omologazione e una mancanza di personalizzazione della casa. No, è solo il sistema costruttivo, cioè tu puoi disegnare esattamente la tua casa come la vuoi tu, e poi viene scomposta in pannelli e montata in cantiere. Io ho visto un suo progetto già realizzato bellissimo nella campagna veneta, un progetto, una casa molto suggestiva, però le voglio chiedere, è un modello applicabile anche nelle città? Ma sì, il legno si presta ad essere usato in modi diversi. Allora, il progetto a cui fa riferimento lei è un uso abbastanza estremo del legno, perché il legno lasciato a vista sia internamente che esternamente ricorda un po' i fienili della campagna. In altri contesti il legno può essere usato in maniera diversa, il legno può essere lasciato più o meno a vista, può essere intonacato o può essere trattato in maniera differente. Ci sono molti esempi di costruzioni in legno in ambiti urbani in cui non si vede che la struttura è in legno, magari lo vedi semplicemente all'interno dello spazio. Grazie a Marta Baretti per essere stata con noi. Arrivederci. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo ad Auckland, su legno e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoli, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. A Warkworth, 45 chilometri da Auckland, c'è un prato. In mezzo al prato un albero e abbracciata a questo albero una struttura interamente realizzata in legno che ricorda un baccello, in pieno organic style, per citare un argomento che abbiamo affrontato qualche puntata fa. Questo baccello, che ha un diametro di circa 10 metri, sfruttando la formula temporary, è diventato per un solo mese recentemente un piccolo ristorante. Nonostante la capienza ridotta, è subito diventato un'attrattiva per la zona. Da alcuni anni le case sugli alberi sono tornate a solleticare, no, l'immaginazione di architetti, progettisti. Questa treehouse si differenzia dagli altri non solo per lo straordinario esito formale, ma perché dietro questa iniziativa c'è in realtà una inedita strategia di marketing, di comunicazione, ovvero è stata la New Zealand Yellow Pages, società che gestisce le pagine gialle neozelandesi, a commissionare a uno studio locale la progettazione di questa struttura, che è stata poi materialmente costruita da una serie di fornitori reperiti proprio attraverso le stesse pagine gialle. Quindi la treehouse rappresenta soprattutto una spettacolare dimostrazione della capacità della Yellow Page di fronteggiare qualsiasi tipo di richiesta da parte dei propri utenti, trovare qualsiasi tipo di fornitori, non importa quanto strampalato sia il progetto o complessa la sua realizzazione. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica essereavere@radio24.it e darvi appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.